Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'Italia ha tutti i problemi di una terra geologicamente molto attiva, sismicità, vulcani, ma questa condizione implica anche un'enorme disponibilità di calore sotterraneo. Lo sfruttamento di questo petrolio geotermico, però, soprattutto per quanto concerne la produzione di energia elettrica, come si fa da più di 100 anni a Larderello, si è scontrata nel tempo con oggettivi problemi ambientali, a cui poi si sono aggiunti anche paure, a volte amplificate invece dell'opinione pubblica. Tutto ciò, insomma, ha portato a un sostanziale arresto di attività che potrebbero invece rappresentare una straordinaria fonte di ricchezza, soprattutto di energia per il paese. Per tentare di sbloccare questa situazione, a fine gennaio, dopo un percorso di confronto, mondo della ricerca, aziende e comitati di cittadini hanno firmato la Carta della Buona Geotermia, o Carta di Abbadia San Salvatore, paese in provincia di Siena, che ha ospitato la firma di questo patto, che ci facciamo illustrare da Fabio Roggiolani, vicepresidente del GIGA, gruppo informale per la geotermia e l'ambiente. Buonasera Roggiolani. Buonasera a tutti. Allora, regole della buona geotermia. Intanto partiamo da una parola, io direi, che fa paura a molti italiani, che è fracking, cioè quella tecnica per cui si inietta di solito acqua calda nel sottosuolo per fratturarlo ed estrarne, come si fa negli USA, metano o petrolio, ma appunto volendo anche calore. Ecco, su questo insomma si è chiusa una fase. Sì, è stato il primo tentativo di sperimentare qualcosa di alternativo alla geotermia tradizionale, diciamo, ma ovviamente fa venire piccoli terremoti localizzati, per cui ovviamente ai primi palazzi che hanno cominciato a ballare hanno deciso che forse non sia il caso, certo, proseguire un'esperienza che noi come GIGA avevamo escluso ovviamente sin dalla nostra nascita. Sin dall'inizio si è sperimentato in Svizzera, per esempio, questa tecnologia, a Basilea, e appunto ci sono stati dei piccoli terremoti. Insomma, questa è una prospettiva che è stata sostanzialmente abbandonata. Ecco, veniamo a queste regole della buona geotermia. Una che avete individuato è reimmissione totale dei fluidi. Ci spieghi? Significa che noi per fare geotermia dobbiamo prendere acqua nel sottosuolo, no? O vapore nelle zone di Larderello. In amiata dobbiamo prendere acqua, in gran parte del mondo prendere acqua. Quest'acqua, o quando si estrae, poi, dopo che si è estratta, bisogna dissiparla in qualche modo, per cui si butta in atmosfera, si cerca di reimmetterne una parte, ma gran parte va in atmosfera. Spesso però quello che troviamo nel sottosuolo è inquinato, certo, specie nella zona dell'amiata. Naturalmente, non è inquinamento umano. Non indotto, in amiata c'erano tra le altre cose le miniere di mercurio, ecco. C'è una storia mineraria. Allora noi per tutte queste zone a livello mondiale stiamo sviluppando un sistema a ciclo binario, sistema chiuso che scambia calore con il sottosuolo, e tutto quello che viene fuori dalla terra viene reimmesso nel sottosuolo da cui viene prelevato. Quindi lo stesso areale geotermico. Quindi anche i gas, anche gli inquinanti, come sono, rientrano, quindi non inquinano niente perché rimangono naturalmente nel sottosuolo. Quindi non si inquina l'atmosfera, non si inquinano laghi, fiumi, e si mantengono anche le stesse condizioni nel sottosuolo, per cui c'è meno rischio appunto di microsismi o cose di questo genere, perché non si modificano le condizioni anche di pressione là sotto, giusto? I microsismi non ce ne sono affatto. L'altro elemento fondamentale è che quell'areale geotermico è un'energia effettivamente rinnovabile, perché innanzitutto non immettiamo in atmosfera CO2, perché spesso nel sottosuolo troviamo... Poi c'è anche quella, certo. Ma l'altro elemento fondamentale è che quel serbatoio non lo sfiatiamo, proprio perché reimmettiamo un'acqua leggermente più fredda, ma ancora ben calda. È evidente che nel complesso quel serbatoio geotermico mi resta vivo per 50, 60 e più anni. Altra attenzione che voi suggerite, diciamo, è quella di passare per un pozzo singolo, cioè perché prima appunto magari si prelevava da un pozzo e poi quello che si riniettava lo si riniettava magari con un pozzo a chilometri di distanza o centinaia di metri perlomeno di distanza, no? Esatto, e questi sono uno degli inquinamenti tipici della zona amiatina, no? Di questi tubi che si vedono in continuazione. No, noi l'idea nostra è di entrare dalla stessa piazzola, va bene, lo stesso buco, e da lì poi procedere per la reiniezione. Cioè, nel sottosuolo ovviamente ci distraiamo di qualche centinaio di metri per non... Cioè sostanzialmente invece di mandare dei tubi in superficie voi perforate orizzontalmente nel sottosuolo, una cosa che si è imparata a fare nel mondo petrolifero negli ultimi anni, e quindi non si vede fuori che i due siti di prelievo e di reimmissione sono diversi. L'altra cosa fondamentale è che l'impatto paesaggistico, infatti, della centrale si riduce in maniera radicale, anche perché la taglia della centrale è enormemente inferiore rispetto a quelle che oggi conosciamo. Ecco che questo è un altro cambiamento importante. Voi dite basta fare centrali da centinaia di megawatt o roba del genere, meglio farle più piccole. Le centrali da 5 megawatt, questa è la taglia della nuova geotermia a reimmissione totale che nasce dalla legge del 2010, queste centrali hanno, diciamo, ingombrano un territorio non superiore a un campo di calcio, anche perché in questa maniera le posso collocare il più possibile verso zone abitate a cui cederò anche tutto il calore che mi avanza da questa operazione. Quindi diventa ulteriormente una geotermia a alta efficienza energetica. Va bene, allora grazie Roggiolani, ci fermiamo qui, ma continuiamo domani questo percorso nella nuova geotermia. Buona serata per intanto. Grazie a voi per l'opportunità, grazie. A domani.